America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. I'm glad that you recognize that Al-Qaeda is a threat. Because a few months ago, when you were asked what's the biggest geopolitical threat facing America, you said Russia. Avete sentito Barack Obama, deciso, pronto, aggressivo all'attacco contro Mitt Romney nel terzo, nell'ultimo dibattito presidenziale, quello dedicato alla politica estera, che si è tenuto ieri notte a Boca Raton in Florida. Un dibattito che si è chiuso con una vittoria ai punti, ma una vittoria, devo dire, molto chiara di Barack Obama, con risposte molto puntuali, proprio come quella che vi ho appena fatto ascoltare. In questo caso Barack Obama parte all'attacco e dice: ma come, signor Romney, governatore, lei dice che l'Iran è il nemico pubblico numero uno, ma fino a poco fa diceva che era la Russia ad essere il nemico pubblico numero uno degli Stati Uniti d'America. Come mai questo cambiamento? E Romney cerca di intervenire, di difendersi, dice: ma no, io dicevo che la Russia era il nemico geopolitico, ma l'Iran chiaramente rappresenta una minaccia molto più grave nell'immediato per via del suo armamento nucleare. Un Romney dunque sulla difensiva invece di essere all'attacco. C'è da chiedersi come mai Romney abbia scelto questa linea. There's no question but that a nuclear Iran, a nuclear capable Iran, is unacceptable to America. It's also essential for us to understand what our mission is in Iran, and that is to dissuade Iran from having a nuclear weapon through peaceful and diplomatic means. Ecco, sentite di nuovo qui il candidato repubblicano che dice: un Iran con l'arma nucleare è inaccettabile per l'America. La nostra missione è quindi quella di dissuadere l'Iran nel suo intento nucleare attraverso strumenti pacifici e diplomatici. È bene aver introdotto delle sanzioni, l'avrei fatto prima forse, ma è bene averle introdotte e stanno funzionando. L'economia iraniana è in ginocchio. Quello che farei adesso è inasprire queste sanzioni e sono sicuro che gli europei, gli alleati europei sarebbero dalla nostra parte. Per esempio, potremmo chiudere i porti. Ecco, vi ho fatto ascoltare questa dichiarazione di Mitt Romney per due ragioni molto specifiche. La prima è che è una delle molte istanze in cui dà ragione a Barack Obama. Ecco, finora noi avevamo l'immagine di un Romney guerrafondaio, invece Romney si è coperto col manto dell'agnellino. La seconda ragione per la quale vi ho fatto ascoltare questa dichiarazione è perché è l'unica istanza in cui si parla di Europa. Ecco, mi ha molto colpito, è stato un dibattito di politica estera, certo ci sono state deviazioni non da poco di politica interna, però insomma, ho contato 43 menzioni dell'Iran, 31 di Israele, 19 del Pakistan, 6 del Mali, 3 dell'Egitto, 2 dell'Africa, 4 della Libia e una soltanto, appunto, in forma indiretta per l'Europa. Ecco, c'è da chiedersi se l'America in spirito bipartisan, anzi dovremmo dire tripartisan, visto che il moderatore non ha neppure fatto una domanda in materia europea, se gli Stati Uniti pensano che la nostra crisi sia ormai archiviata e dunque irrilevante, o se invece contiamo davvero pochissimo. In molti interpellati su Twitter, devo dire, hanno scelto la seconda ipotesi. You mentioned the Navy, for example, and that we have fewer ships than we did in 1916. Well, Governor, we also have fewer horses and bayonets because the nature of our military has changed. We have these things called aircraft carriers where planes land on them. We have these ships that go underwater, nuclear submarines. Altro tema centrale di questo dibattito è stato la politica sulla difesa, anzi le spese per la difesa. E Romney parte con un tentativo di attacco contro Barack Obama e dice: ecco, devo dire che la politica della sua amministrazione è stata davvero di poca visione. Ha ricordato Romney che la flotta navale americana è al suo punto più basso dal 1917, che l'aeronautica di nuovo si trova in difficoltà e dunque, dice, bisogna rafforzare l'America, bisogna farlo a tutti i costi. E proprio nel momento in cui sembrava che mettesse in difficoltà Obama risponde e dice: Romney ha parlato del fatto che abbiamo meno navi da guerra di quelle che avevamo nel 1916. Governatore, dice Obama, abbiamo anche meno cavalli e baionette. Oggi abbiamo queste cose chiamate portaerei, sottomarini. Il modo di fare la guerra è cambiato, c'è una dinamica molto diversa. Ecco, la questione delle baionette dei cavalli naturalmente ha colpito l'immaginazione del popolo di internet, dei giornalisti, dei media, degli analisti. ma devo dire che ha anche messo in evidenza un punto di debolezza possibile per Barack Obama. Perché? Beh, perché a Norfolk, in Virginia, c'è uno dei più grandi porti americani. La Virginia è molto impegnata in due o tre diverse location portuali nella gestione di porti per la Marina militare. E dunque il fatto che Barack Obama abbia fatto una battuta contro la Marina militare o comunque contro l'idea di produrre nuove navi potrebbe non aiutarlo in Virginia, uno degli stati chiave. China has an interest that's very much like ours, and that is they want a stable world. They don't want war, they don't want to see protectionism. Ecco, sentiamo di nuovo Mitt Romney in uno di questi suoi interventi così molto ondivaghi. Perché all'inizio parte dicendo che gli interessi della Cina sono i nostri interessi, nel senso che loro vogliono un mondo stabile, non vogliono guerre, non vogliono protezionismi, vogliono produrre, creare posti di lavoro. Insomma, una grande apertura alla Cina. Fino a poco fa era sempre invece molto aggressivo nei confronti della Cina. Dopodiché cambia timbro e dice: io però sarò il presidente che come primo atto dichiarerà la Cina come manipolatore valutario, e da lì attacchi contro la Cina. Ecco, questo modo di essere un po' strano da parte di Romney, un po' incoerente, cioè ha colpito, ma non ha colpito in modo positivo. L'obiettivo, dicono gli esperti, era quello da parte di Romney di mostrarsi come uomo presidenziale, moderato, prudente, non come una testa calda, pronto al dialogo. Per questo ha dato ragione a certe scelte politiche di Barack Obama sul fronte, per esempio, dell'utilizzo dei droni, sul fronte della politica contro Al-Qaeda, nei confronti della Cina e così via. E però alla fine questo potrebbe danneggiarlo, perché alla conclusione del dibattito è apparso meno deciso, meno pronto, meno determinato di Barack Obama. Lo stesso è successo quando si è parlato di viaggi all'estero. Sentiamo. Nothing Governor Romney just said is true. Starting with this notion of me apologizing, this has been probably the biggest whopper that's been told during the course of this campaign. Qui Romney aveva cominciato la discussione dicendo: Presidente, lei si è recato in Medio Oriente, ha visitato l'Egitto, l'Arabia Saudita, la Turchia, l'Iraq, ha assaltato Israele, il nostro alleato più fedele nella regione. Questo gesto è stato notato, era come se lei si recasse in giro a chiedere scusa. E Obama risponde: lo avete sentito, nulla di quello che ha detto Romney è vero, a cominciare dal fatto che abbia chiesto scusa. Questa è probabilmente la più grande fesseria raccontata in questa campagna elettorale. E parlando di viaggi fatti, dice Obama: quando sono andato in Israele come candidato alla presidenza non ho incontrato donatori, sottintendendo come ha fatto lei. Sappiamo che Romney ha incontrato i donatori in Israele. Non ho partecipato ad eventi di raccolta fondi, sono andato a Yad Vashem, al museo dell'Olocausto, per ricordare a me stesso la natura del male e perché il nostro legame con Israele è indistruttibile. Insomma, un dibattito, devo dire, meno vivace del secondo e del primo. Un dibattito interessante sotto certi punti di vista, con deviazioni di politica interna che, devo dire, il moderatore non avrebbe dovuto consentire. Si è parlato di Chrysler, di educazione, di insegnanti. Ecco, non c'entrava nulla, assolutamente nulla, con la politica estera, se non quando Barack Obama ha detto: per essere credibili fuori dobbiamo essere forti all'interno. Cosa su cui, di nuovo, Mitt Romney si è trovato assolutamente d'accordo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sia tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter @MarioPlatero, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Nel 2008, durante l'ultima campagna elettorale, uno spot per Barack Obama si chiedeva e chiedeva agli americani what went wrong, prendendo in prestito i versi e la musica della commovente canzone di Paul Simon, American Tune. Due settimane dal voto per la Casa Bianca 2012, ve la ripropongo. Paul Simon, American Tune. Many's the time I've been mistaken, and many times confused. Yes, and I've often felt forsaken, and certainly misused. Oh, but I'm all right, I'm all right. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!